Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Replica. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di stress da offerte. Quando sono troppe disorientano e i consumatori rimangono insoddisfatti. Parliamo poi della riscossa dei venditori ambulanti con i consigli su come scegliere la bancarella giusta e per il focus sui trend parliamo di una tendenza che vede protagoniste la fiaba e la storia. C'era una volta. Ma prima, come sempre, ci sono le notizie e curiosità della settimana. Classici monocolore oppure leopardati, a pois, a fiori, a cuori, in vernice. Gli stivaletti di gomma antipioggia sono il must have della stagione. Usati da sempre dai cacciatori, comodi e pratici, sono apprezzati da fashion victim, teenager e signore chic. Dopo Milano arriva anche a Roma l'avvocato in vetrina. Studio legale con accesso diretto dalla strada. Obiettivo di ALT, assistenza legale per tutti, avvicinare l'avvocato il più possibile al cittadino. In Gran Bretagna la crisi colpisce anche la pinta di birra, cuore della vita sociale d'Oltremanica. Negli ultimi mesi le vendite sono scese di oltre il 7%, portando i consumi al loro livello più basso da 10 anni. Denuncia di Coldiretti in occasione del World Pasta Day. Scandaloso che a fronte di un dimezzamento del prezzo del grano, il prezzo della pasta aumenti. È Sean Connery, il nuovo volto della campagna Louis Vuitton. Si tratta della sesta serie di ritratti sul tema del viaggio, che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Mikhail Gorbachev, Sofia e Francis Ford Coppola, Catherine Deneuve e Keith Richards. Altro consumo scende in rete a sostegno della concorrenza, cliccando su My Product Selector. Dalla home page del sito dell'associazione di consumatori è possibile consultare i test comparativi di 400 fra telefoni cellulari, televisori e registratori DVD. Oltre 13.000 i prezzi rilevati in 350 negozi in 20 città italiane. In Olanda sono in voga da tempo, adesso arrivano anche da noi. Sono i Boat and Breakfast, versione marinara dell'ospitalità in case private con piccola colazione. Si alloggia a bordo di yacht o romantiche barche a vela. La borsa della spesa. Stress da offerte è la nuova malattia che colpisce i consumatori italiani, una sorta di ansia da prestazione. Ogni qualvolta bisogna scegliere la compagnia telefonica, il fornitore di energia, l'albergo dove andare in vacanza, per non parlare dei televisori, l'auto, la moto. Il risultato? Clienti insoddisfatti, lo dice la ricerca che abbiamo scelto per l'approfondimento della settimana. Farmacie, supermercati e centri commerciali promossi. Treni, assistenza agli anziani e uffici pubblici bocciati. La pagella del gradimento dei consumatori arriva dall'ultima indagine sulla customer satisfaction realizzata da CFMT, la business school del terziario creata da Manager Italia e Confcommercio. 32 i settori presi in esame, oltre 6.000 le persone intervistate. Colpisce la bocciatura trasversale dei servizi, ai quali più di un italiano su 10 assegna un giudizio negativo. Precipita il livello di soddisfazione sia per quelli pubblici che privati. In 2 anni ha perso ben 5 punti, passando dal 69,3 del 2006 al 63,8 di quest'anno, al di sotto della soglia minima di soddisfazione che equivale a 70. Una reazione, viene spiegato, al bombardamento di offerte e promozioni che, a dispetto degli intenti delle aziende, disorienta i consumatori sempre più critici nel confrontare servizi e qualità. Passi da Telecom ad Alice e già lì è un casino, recita una delle testimonianze raccolte. Poi vedi che anche Alice non va bene e allora inizi a pensare che Fastweb era meglio. Il settore con la perdita di posizioni più rilevanti è quello degli asili nido, meno 17, ma perdono punti anche aerei e sanità privata, appena sotto la soglia minima i servizi alberghieri. Complicazione della vita quotidiana e fastidi inevitabili, uffici e mezzi pubblici guadagnano la maglia nera della disapprovazione italiana e vanno poco meglio assicurazioni, gas, acqua, energia, telefonia fissa, autostrade, sanità pubblica. La percezione dei consumatori, insomma, è che la quantità dei servizi sia aumentata, ma la qualità diminuita. Banche, assicurazioni e servizi in genere scontano il fatto di considerare tuttora i clienti più utenti che consumatori, ci dice Michelangelo Patron, direttore generale CFMT. Il cliente, diciamo, da una parte ha verificato e ha percepito un problema legato alla trasparenza e all'informazione, e dall'altra, diciamo, paradossalmente un eccesso di offerta, un'offerta poco trasparente, che sta creando solamente uno stress, non aiuta il consumatore, diciamo, a decidere o a prendere le sue decisioni, anzi crea delle difficoltà. Il cliente oggi, quindi il consumatore oggi, che è molto più consapevole, molto più informato e molto più attento, diciamo, a tutte le informazioni e le cose che in qualche modo le aziende propongono, si è trovato di fronte, diciamo, a una logica push molto forte che ha creato evidentemente una complessità rispetto, diciamo, alla richiesta di forte semplificazione che il consumatore, diciamo, richiede e ha bisogno. Voltiamo pagina, i dati parlano chiaro, nel crollo generalizzato dei consumi tirano il freno anche gli alimentari. Questo che cosa vuol dire? Che prima gli italiani hanno risparmiato sui detersivi, i prodotti per la cura della casa e della persona, poi hanno preferito i prodotti senza marca a quelli più famosi e ora comprano meno cibo. E in questa strategia di sopravvivenza ambulanti e discount vengono preferiti a ipermercati e supermercati. Questa settimana parliamo degli ambulanti, la prossima dei discount. Luigi Rubinelli, direttore di Markup. La crisi dei consumi sta cambiando la mappa di come acquistano i consumatori. Gli ambulanti, un po' in tutte le regioni d'Italia, rappresentano oggi l'equilibrio di acquisto per molte fasce di consumatori, per quanto riguarda specialmente i prodotti orticoli e la frutta. Guardando attentamente a come sono disposte le bancarelle, ogni consumatore può farsi la propria personale mappa della convenienza. In fondo a destra c'è il più caro, in mezzo c'è l'ambulante con i prezzi più bassi, poco più in là c'è il miglior rapporto qualità-prezzo e via dicendo. I problemi per i mercati ambulanti però non mancano e sono principalmente due. Il mercato è aperto uno o due giorni alla settimana al massimo e poi la stragrande maggioranza delle bancarelle sono dedicate all'ortofrutta, appunto, alla gastronomia e ai capi di abbigliamento e ai prodotti per la casa. Difficile trovare pane e pasticceria, il pesce inavvicinabile, il vino introvabile e conviene scansare con cura le poche bancarelle di profumeria dato l'alto grado di contraffazione e di vendita di prodotti di dubbia provenienza e certificazione. Ma è comunque il successo. I clienti degli ambulanti sanno che se seguono la stagionalità dei prodotti, cioè se comprano prodotti italiani provenienti da regioni vicine al mercato in stagione, i prezzi sono bassi, a meno di problemi meteorologici gravi. È la filosofia lanciata da Carlin Petrini e il suo Slow Food e da Italy, l'insegna nata a Torino per l'iniziativa di Oscar Farinetti e di alcune coop di consumatori. È in pratica una sorta di autoregolamentazione che le leggi di mercato, l'economia e la crisi consentono, un modo diverso di intendere la spesa, più razionale e meno emozionale. Mai più senza. Capolavoro di funzionalità ed estetica, icona del design anni 50 e della quotidianità di molte famiglie italiane, l'oggetto cult della settimana è a cura di Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum. Già autore sempre per Necchi di una macchina per cucire del 1954, la Supernova BU, premiata con il Compasso d'Oro, nel 1957 Marcello Nizzoli mette a punto con la macchina da cucire portatile Mirella la sintesi perfetta di una ricerca volta a risolvere con il disegno le relazioni fra macchina, spazio e funzione. Nata in anni che vedono un incremento del lavoro domestico femminile e una crescente meccanizzazione dell'antica arte del taglio cucito, Mirella è stata definita l'interpretazione scultorea della macchina per cucire. La forma è avvolgente ma essenziale e lo spazio vuoto centrale produce una soluzione visiva di forte suggestione. Perfetto laboratorio automatico, con le memorie meccaniche che guidano l'esecuzione dei ricami, Mirella è un mirabile esempio di sintesi fra ergonomia, meccanica di precisione e design. Essere e avere. Replica. Bentornati in studio con Essere Avere per questa seconda parte dedicata come sempre all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna. Buon pomeriggio Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Il titolo che abbiamo voluto dare alla puntata di oggi è C'era una volta. Vogliamo cioè analizzare una tendenza che fa della favola e della storia più in generale la propria cifra stilistica. Parliamo cioè dell'uso delle icone dell'immaginario fiabesco nella moda, non solo moda per i bambini, e nel design, del successo di re e regine, personaggi storici o mitologici nei consumi culturali, dal cinema alle fiction fino alle grandi mostre. Patrizia. Sì, è soprattutto con la moda e il design che si gioca con gli stili e i personaggi storici, mitici e delle fiabe che trasformano il nostro quotidiano in un momento ludico, divertente, attraverso forme di fiction comportamentale, per così dire. Questo perché soprattutto la fiaba è un luogo altro, un mondo separato e diverso, dove il bene e il male, i buoni e i cattivi sono chiaramente distinguibili, e per questo e anche per la sua struttura ha una funzione rassicurante, sempre uguale. L'estetica fiabesca, naturalmente imperversa nella moda, quest'anno le vetrine di Moschino avevano dei topolini bianchi con dei vestitini rossi che sfilavano come modelle in passerella. Per l'inverno la moda propone gonne da principesse, giacche militari, anche molto napoleoniche, all'insegna di questo eclettismo molto femminile da principessa moderna. La comunicazione attinge, fa man bassa dall'universo fiabesco, da Coin, che propone torte, candy e frivolezze varie color pastello, a Hermès, che lancia il profumo Eau de Merveille con un flacone da cui nella campagna stampa a mo' di bacchetta magica esplode disegnato uno scintillio di stelle e di bollicine. Non possiamo naturalmente non citare i nani di Cartello, quelli di Elio Fiorucci, che con Love Therapy intende proprio curare gli animi con favole e colori. È interessante dal mondo dei consumi culturali citare Drawn Together, il primo reality show a cartoni animati, una serie televisiva che sta andando in onda adesso sul canale satellitare Comedy Central di Sky, ed è la presa in giro di uno stereotipo, di una tipologia comune di cartoni animati di tutti i tempi. Sua maestà il re è deciso. Siamo in guerra contro la Francia. Ora possiamo andare a giocare. Sir Tommaso Moro. Tommaso. Vostra maestà. Non avete parlato all'ultimo consiglio. Di che cosa? Della guerra contro la Francia. In quanto umanista io aborro la guerra. Come re sono costretto a dissentire. Non ho eredi. La dinastia dei Tudor, tutto il lavoro di mio padre finirà ed è colpa mia. Credo che un giorno chiederai il divorzio. Il divorzio è impossibile. Credete. Quello che abbiamo appena ascoltato era uno spezzone tratto dalla serie TV The Tudors, racconta le vicende della dinastia inglese che ruotano intorno alla figura di Enrico VIII, tra le serie TV più costose mai prodotte. Grande successo di pubblico e di critica negli Stati Uniti e in Inghilterra, è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, tanto che si parla di moda Tudor: camicie bianche, pantaloni aderenti, corpetti e gioielli importanti. Patrizia, una chiave di rilettura anche questa. Sì, certo, il nostro immaginario è fortissimamente influenzato soprattutto dal cinema, e poi abbiamo sempre le ricadute nel mondo dei consumi. In questi anni pensiamo a quanto il cinema ci ha proposto e riproposto film storici in costume. Il grande affresco su Versailles di Sofia Coppola, Maria Antonietta del 2006, nel 2007 Elizabeth the Golden Age sulla regina guerriera, quest'anno il film tradotto L'altra donna del re sulle due sorelle Bolena, Mary e Anne, che si contendono appunto l'amore di Enrico VIII d'Inghilterra. Casanova è il tema scelto per la sfilata veneziana di lingerie di Triumph International, che per la collezione autunno-inverno 2008 ha proposto appunto colori pizzi floreali con cristalli Swarovski in atmosfere settecentesche molto intriganti, con queste bellissime dame imparruccate, facendo un misto tra Eyes Wide Shut di Kubrick e di nuovo Maria Antonietta. in tema di corone, corti e regnanti, citerei l'edizione 2008 del calendario Lavazza, che ha questo sottotitolo The Most Majestic Espresso Experience, quindi l'esperienza maestosa del caffè, ispirata ancora una volta a Versailles. Tra l'altro la presentazione è stata fatta proprio nella Reggia alle porte di Parigi, con una serata di gala che pare sia riuscita a riproporre proprio i fasti dell'epoca. Il mondo del design anche qui ha proposto degli stili regali, come nel caso del set di posate di Deluxe, in plastica viola, quindi l'argenteria regale in versione pop. Dal neoclassicismo settecentesco attingono in molti in questo momento, infatti è uno stile recuperato, se pensiamo, da Prada per le borse, da Ralph Lauren per l'abbigliamento, di nuovo dal design. Drug ha creato un calorifero da parete meraviglioso in perfetto stile neoclassico, e addirittura anche i capelli recuperano questo style up con nodi e chignon scolpiti. Una curiosità in tema per chiudere: su Requiem for You.com si può avere un requiem, cioè una composizione musicale personalizzata per il proprio o altrui rito liturgico funebre, tra i 20 e i 400 euro. E sono moltissime le mostre dedicate ai grandi personaggi storici, vere e proprie mostre evento in tutta Europa. A Parigi la retrospettiva su Maria Antonietta, che si è chiusa a giugno, ha scatenato una vera e propria mania, ingressi record e merchandising a ruba. Analogo successo a Londra per quella dedicata all'imperatore Adriano, che si è chiusa il 26 ottobre. Mentre da noi si è appena aperta nelle sale di Palazzo Strozzi a Firenze la mostra Caterina e Maria de Medici, donne al potere, dedicata alle due sovrane che ressero la Francia. Per saperne di più abbiamo in collegamento la soprintendente al Polo Museale Fiorentino, Cristina Acidini. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Perché la scelta di queste due figure? Sono queste due donne al potere, come il titolo della mostra, due personaggi di grande rilevanza nel panorama dell'Europa del 500 e del primo 600. Ed entrambe educate a Firenze con i criteri appartenenti al mecenatismo fiorentino. Quindi la loro presenza alla corte di Francia segna in entrambi i momenti in cui regnarono un innalzamento dell'interesse per la committenza e la produzione di oggetti d'arte. Ecco, imposero anche il gusto italiano alla corte di Parigi, ne cambiarono usi e costumi, è così? Sì, specialmente Caterina è considerata proprio una personalità fondamentale per le usanze che poi sono state incorporate, diciamo così, dalla corte francese e quindi dal costume. Ma per dire, con Maria arriva il giardino all'italiana, che poi diventerà il giardino alla francese, il giardino formale che caratterizza la cultura europea. Secondo lei c'è una riscoperta della storia e dei suoi messaggi di modernità che passa anche attraverso queste mostre? Noi ci auguriamo proprio che sia così. Il senso di mostre a carattere anche biografico, che focalizzano l'attenzione su personalità del passato, portano allo scoperto le motivazioni anche che ancora oggi caratterizzano certi comportamenti, certe alleanze, certi panorami che ci sembrano molto dipendenti dal contemporaneo, o tutt'al più li vediamo naturalmente originati dal secolo scorso, dai grandi movimenti, le guerre, le alleanze del Novecento, ma in realtà le radici sono più antiche e profonde, e proprio ritornando alla storia si comprendono molti aspetti dell'attualità. Grazie a Cristina Acidini per essere stata con noi. Grazie a voi. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Buenos Aires su Fiaba, Storia e dintorni? È il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Elena Marinoni, buongiorno, che cosa ci racconti? Buongiorno a tutti, sì, oggi visitiamo l'Hotel Faena, categoria Luxury, forse il più immaginifico degli hotel progettati da Philip Stark, in questo caso in coppia con Alain Faena. Dal punto di vista del concept e dell'immaginario di riferimento, è come sospeso in una dimensione compresa tra lo sfarzo della corte del Re Sole e la fiaba, a cominciare dal lettering della F di Faena, che troneggia all'entrata, il cui trattino centrale è sostituito da un segno grafico che ricorda esplicitamente il Giglio di Francia. Gli interni vedono sorprendentemente una dominante di bianco, che dialoga però con il rosso, l'oro e tanti complementi di arredo di gusto barocco soprattutto sedie e lampade progettate dallo stesso Stark, mentre il personale indossa costumi d'epoca con tanto di crinolina, l'acqua nella vasca da bagno esce per esempio da flessuosi cigni. Stark sceglie dunque ancora una volta nei suoi progetti, come già nell'hotel Le Maurice in Rue de Rivoli a Parigi, il codice espressivo e stilistico Versailles, dimostrandosi maestro nel darne una interpretazione più contemporanea, come asciugata dalle note più eccessive. Grazie Elena. Patrizia, a te come sempre in conclusione l'arduo compito di tirare le fila di quanto detto finora. Ma dunque direi che sia la storia che la fiaba nei momenti di grande incertezza diventano luoghi a cui sempre si ricorre, quindi c'è questo continuo ritorno ciclico che, se vogliamo, si è accentuato dal 2001, degli eroi del passato, quelli un po' senza tempo, che sono anche un po' i miti fondativi delle culture e che forse sono davvero un po' terapeutici. Essere avere @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti. Vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13 e in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.